troppo lontano. E adesso che voglio starti vicino, dobbiamo tagliare in giardino, potare il nostro campo di fieno. Domani è troppo lontano, senza di te sono solo un cretino. Dobbiamo mietere il nostro grano, darci forza, darci una mano. Rimani questa notte stellina, innaffiami il cuore bambina. Dimenticati la mia sfortuna, prima o poi io ti darò il sole e la luna. La strada che ho attraversato mi ha deluso, mi ha cambiato. Ed ora io so quanto vale il tuo respiro, il tuo grande amore. A volte si cerca l'America, poi ci si accorge che era nella nostra manica. Ora voglio solo ascoltare la tua voce, respirare i tuoi occhi in pace. Rimani questa notte stellina, innaffiami il cuore bambina. Dimenticati la mia sfortuna, prima o poi io ti darò il sole e la luna. Rimani questa notte stellina, innaffia il mio cuore bambina. Dimenticati la mia sfortuna, prima o poi io ti darò il sole e la luna.